9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, ci siamo puntualmente ancora una volta. Ieri il premier liberale del centrodestra Silvio Berlusconi, di fronte all'ennesima contesa pubblica che era partita sui giornali, perché un parlamentare del centrodestra, questa volta della Lega ma con firmatari del PDL, aveva riproposto, depositato in Parlamento, una proposta per l'abolizione del valore legale del titolo di studio. Naturalmente i giornali montano un po' di polemica che io credo spesso non consenta alla gente di capire davvero di che cosa si sta parlando. Ed ecco che ancora ieri, ancora una volta, il premier spegne tutto dicendo no, tranquilli, il valore legale del titolo di studio resta. Allora, questa storia va avanti in Italia da tempo veramente immemorabile, tal punto tale da essere un vero luogo comune del dibattito pubblico italiano. Pensate che Luigi Einaudi, non un pericoloso, eversivo, sostenitore della lotta darwinista, ma insomma, Luigi Einaudi, quello che ha messo in piedi l'Italia con De Gasperi, ha dato dignità ai suoi conti, ha diretto la Banca d'Italia, è stato anche ministro del bilancio, di Einaudi, insomma Luigi Einaudi nel 1947 scriveva nei suoi scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo un meraviglioso articolo che io vi invito a ricercare, che è valido come se fosse scritto oggi e in ogni tempo, intitolato Vanità dei titoli di studio. E nel 55 ci torna sopra scrivendo un altro saggio per l'abolizione del valore legale del titolo di studio. La letteratura poi è su questo tema veramente lunga. Vi ricordo solo uno scritto di Sabino Cassese, qui con un'apertura ai diversi temi aperti nel diritto italiano collegati al valore legale del titolo di studio. Questo lo trovate, è un saggio riproposto ancora nel 2002. Trovate sull'Istituto Bruno Leoni, che mi è molto caro, se lo cercate sul sito, molti scritti su questo argomento. Li trovate anche sul mio blog, Chicago Blog. Ma io oggi voglio fare, per così dire, il semaforista, perché quello che mi colpisce della vicenda, ho qui pacchi di dichiarazioni di parlamentari di tutti gli schieramenti politici nei diversi anni, ho dichiarazioni dell'attuale ministro Gelmini, ho dichiarazioni del ministro Brunetta, però ho anche dichiarazioni di parlamentari del PD come Pietro Ichino, ho dichiarazioni di ex ministri e parlamentari del PD come Linda Lanzillotta. Non vi voglio annoiare, perché è veramente una lista molto lunga e tutti si dichiarano, coloro che hanno reso queste dichiarazioni, favorevoli all'abolizione del valore legale del titolo di studio. Allora la domanda è: perché regolarmente, tutte le volte che questo tema si riaffaccia con proposte nel dibattito pubblico italiano, immediatamente o dopo pochi giorni al più, il premier in carica, qualunque sia il suo colore, dice non se ne parla? Qual è davvero la portata, il radicamento di questo totem tabù intoccabile? Che cosa mette davvero in discussione al punto tale che sia i liberali sedicenti, coloro che prendono i voti da 16 anni in nome del meno tasse e meno Stato e poi regolarmente non mantengono la promessa, sia coloro che invece dall'altra parte dicono però di essere scesi a patto col mercato, merito, concorrenza, che cosa li spinge poi davvero ad affacciarsi su questo tema come se fosse il ciglio di un burrone in fondo al quale c'è qualcosa di innominabile, una specie di bestia biblica che potrebbe tutti portarci all'Armageddon? Ecco, questo mi ha sempre molto colpito. Io ho un sospetto, ma non ve lo voglio dire all'inizio, perché, come è giusto, abbiamo tentato di improntare questa puntata, oltre a chiedere a voi come la pensate, quindi chiamate l'800 24 00 24 per dire a cosa ci capite quando si dice abolizione del valore legale del titolo di studio, perché secondo me non è molto chiaro a cosa serve rispetto agli esami di Stato e alle professioni. Si crede che sia una specie di bollo sull'eguaglianza dei punti di opportunità, e per questo io sono convinto che molti di voi dicano ma tutto sommato è una garanzia di eguaglianza, e in realtà non serve a niente da questo punto di vista. Ma questo, ripeto, più che chiederlo a voi e oltre che a voi, chiediamo a un difensore esplicito, come la sua organizzazione. Oggi abbiamo scelto di chiedere a un difensore del valore legale del titolo di studio di prestarsi a questo confronto per entrare nel merito. Quindi ve lo presento, perché Mimmo Pantaleo è il segretario generale della FLC, che è la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza della CGIL. La CGIL, gli do atto e merito del fatto che quando questo tema si ripropone si alza e con grande durezza, ma anche con grande energia, spiega che invece non bisogna toccarlo il valore legale, ed è giusto che ci sia nel nostro ordinamento, è un suo pilastro, una sua caratteristica. Buongiorno a Mimmo Pantaleo, e direi di cominciare proprio da lei. Perché a suo giudizio il valore legale è meglio non toccarlo, e tutti costoro che da schieramenti, opinioni, culture, tradizioni diverse dichiarano di essersi convinti della necessità di cambiare questo istituto sbagliano? Ma intanto dovremmo discutere di che cosa esattamente parliamo, perché molto spesso non si comprende di che cosa esattamente parliamo. Il valore legale del titolo di studio che cos'è? È un'attestazione di idoneità che si consegue al termine di un corso formativo, e sono rilasciate a seguito di esami, atti di giudizio e valutazioni. Questi sono sostanzialmente un titolo di studio oggi. Rispetto a tutto questo, ovviamente, il valore legale del titolo di studio rientra all'interno anche di principi di carattere costituzionale. Penso al valore dell'università e l'autonomia dell'università assicurata all'interno del nostro ordinamento giuridico e costituzionale. Ora, chi propone in realtà l'abolizione del valore legale del titolo di studio pensa ad un altro sistema universitario, e io questo punto io credo va chiarito. Cioè, non è semplicemente l'abolizione del valore legale del titolo di studio, in realtà dietro questa proposta c'è un'altra idea di università, che è un po', diciamo, il modello americano, no? Nel quale l'università lì negli Stati Uniti è piegata al mercato, sostanzialmente. Non c'è nessun intervento. Vede Pantaleo, se la mette così, lei la mette subito. Io per questo l'ho fatta parlare. Perché se la mette così e lei dice: vogliamo andare al mercato, vogliamo andare a questa specie di bestia bimba. Parliamo in termini di ordinamento italiano. Ma voglio dire, chi ha presentato le proposte di abolizione del valore legale del titolo di studio fa un chiaro riferimento. Basta andare in Parlamento. Ma per carità, ma perché? Ma negli altri paesi europei funzionano come da noi? No. Io le sto dicendo. Pantaleo Alt, se lei inizia dicendomi oggi, allora io dovrei dirle. Lei mi sa dire perché, se è tutto così costituzionalmente dovuto l'articolo 33, nella legislazione italiana, nella concreta scelta del linguaggio della legislazione italiana, il termine valore legale non compare prima del 73? Allora, prima si faceva riferimento alle qualifiche accademiche che l'università deve dare, eccetera, eccetera, semplicemente ricordando che gli statuti dovevano essere volti a mettere i paletti, i criteri, visto che venivano dati questi attestati. Negli anni 70 compare nella legislazione italiana, in particolare nell'articolo 10 della legge 30 novembre 73, la definizione valore legale, quindi il sospetto che qualcosa che nella Costituzione non c'è così, ma poi affiori nel nostro ordinamento, per dire d'ora in poi non si tocca, perché qui ci sono i concorsi di Stato e le abilitazioni delle professioni. Questo è il punto. Che come sa, in altri paesi europei, senza arrivare all'America, poi arriveremo anche all'America, in altri paesi europei l'abilitazione, gli esami di Stato e le abilitazioni per le professioni sono risolti in maniera diversa per singola professione, senza bisogno di un diploma medio superiore e di un laurea, sia essa media o magistrale di 5 anni, che debba essere uguale per tutti, quando le offerte formative non sono uguali per tutti. E un titolo di laurea di un grande politecnico, lei lo sa meglio di me, visto che sta parlando del modello, cioè Torino e Milano, non vale quanto una laurea in ingegneria di una cosa nel sud, perché il mercato del lavoro non lo riconosce, punto, e ora continua. Sì, ora guardi, io penso che il problema va esattamente ribaltato. Io credo che innanzitutto una discussione sul valore legale del titolo di studio è strettamente connessa all'idea di università e di sistema formativo che noi abbiamo in testa e del rapporto tra esso e il mercato del lavoro. Certo. E credo che non può essere estrapolata questa discussione da questo contesto. Ora, io vorrei portarle alcuni dati per dimostrare che poi lei dice l'università, il Politecnico di Milano non è uguale rispetto a una facoltà di ingegneria. No, lo dice il mercato, non lo dico io. No, ora, il mercato, però, nel nostro sistema sono presenti tante contraddizioni. Le faccio un esempio. Si dice che questo meccanismo del superamento del valore legale del titolo di studio dovrebbe in qualche maniera stimolare più merito e più valutazione. In realtà oggi merito e valutazione non hanno nessuna cittadinanza all'interno del nostro sistema universitario. Ci sono dati recenti che ci dicono, ad esempio, che al di là della discussione del merito, oggi la selezione all'interno del sistema universitario avviene esattamente per censo, esattamente, no? Cioè l'81,4% dei laureati nel nostro paese proviene da famiglie di laureati, cioè nel senso che il processo di mobilità sociale che il sistema della formazione e il sistema universitario dovrebbero determinare in realtà non lo provo. Non è un ascensore di mobilità, e su questo siamo d'accordo. Quindi, come vede, il valore legale non garantisce assolutamente. L'altro punto importante è questo. C'è stata recentemente un'indagine di Alma Laurea che ci dice che sostanzialmente, rispetto agli sbocchi nel mercato del lavoro e nel mondo delle professioni, in realtà oggi il titolo di studio determina soltanto parzialmente lo sbocco, perché in realtà abbiamo visto che solo il 30% di chi oggi si laurea fa esattamente la professione rispetto alla quale si è laureato. Quindi c'è un problema anche rispetto al rapporto tra domanda e offerta oggi di competenze di professione nel nostro paese. E basta vedere quanti vanno a fare scienza della comunicazione dove rimarranno disoccupati, è ovvio. Quindi l'altro problema è che, a mio avviso, va meglio ponderato e meglio definito il rapporto oggi tra sistema economico, mercato del lavoro e sistema universitario. Ma se dobbiamo fare questo, Pantaleo, non dobbiamo commisurare meglio i profili dell'offerta formativa rispetto semplicemente a un timbro che è uguale per tutti, ma poi non lo è? In un contesto in cui non è che io elimino il titolo di studio e automaticamente ho valore, merito, valutazione. No, il punto è che deve essere parte di un ragionamento. Poi alla fine di un processo io sono pure disponibile a ragionare, ma non mi sembra che oggi si possono invertire oggi queste questioni, soprattutto in una fase nella quale si stanno tagliando risorse fondamentali al sistema universitario e parecchie università. Vabbè, guardi, non parliamo della manovra, parliamo del valore legale. Mi pare che il contesto non è influente rispetto alle discussioni che si fanno. Ma io credo dire che questo problema cosa? Va collocato all'interno di un processo più generale. Va bene, e comunque non si tocca processo più generale. Carlo Lottieri insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena e dell'Istituto Bruno Leone, quindi Carlo Lottieri è sicuramente a favore. Ma le chiedo, qual è la sua opinione in merito al fatto che alla fine Pantaleo vince sempre, questo è il punto, perché vince sempre Pantaleo? In realtà quali sono, dal punto di vista di uno che è convinto, sostenitore convinto da sempre dell'abolizione del valore legale, dopo anni e dopo decenni, di fronte a cosa si deve arrendere? Perché Pantaleo, oltre agli argomenti che ha sostenuto, rappresenta che cosa davvero come interesse di fronte al quale la politica si ferma e dice non possiamo toccarlo? Professor Lottieri. Io credo che essenzialmente quanto è stato detto da Pantaleo è corretto in questo senso. Lui in definitiva ha sottolineato come sia difficile discutere sul valore legale senza mettere in discussione anche, come dire, il controllo statale sull'istruzione in generale. E voglio dire, questa è una vecchia questione, voglio dire, che risale alla statizzazione della Sorbona, se vogliamo, in Francia da parte dell'assolutismo, no? Cioè, il potere politico vuole controllare la società, e uno dei modi di controllare la società ovviamente è controllare il sistema educativo. Perché il valore legale, aspetti professore, siccome non diamo troppe cose per scontato, chi non è esperto di sistemi scolastici universitari potrebbe essere che non associ il valore legale al fatto che i curricula e quindi tutti gli insegnamenti, tutto ciò che è didattico, pedagogia nei livelli più bassi, ma didattica e corsi di studio attraverso il valore legale è uniformato. Questo è il punto. Prego, professor Lottieri. Cioè, di questo senso non solo si riduce la competizione, ma si opera anche un'omogeneizzazione, no, dei percorsi culturali sulla base di quelli che sono gli interessi del ceto politico nei vari momenti storici. Quindi in questo senso c'è davvero un blocco di interesse, senza considerare che tutti gli operatori del settore tutto vogliono meno che la concorrenza, e quindi siccome questo meccanismo di standardizzazione che per forza di cose riduce la concorrenza perché impedisce alle diverse università di appunto offrire qualcosa quindi veramente variegato e anche significativo il contesto, se mi permette, della dichiarazione di Berlusconi, che riparlava davanti a una delle 12, all'interno di una delle 12 università telematiche, che sono per certi aspetti uno dello scandalo italiano di questi anni, e che sono un po' la dimostrazione del fatto che le università in Italia sono diventate appunto delle macchine di diplomi. Delle macchine di diplomi in cui non è poi importante quello che si apprende, ma invece è importante apparentemente almeno il titolo. Poi nella realtà per fortuna il mercato c'è, e quindi, come giustamente hai detto prima, il titolo Politecnico di Torino non è equivalente all'ultima università del paese, però l'illusione che viene offerta è un po' questa: il titolo di dottore, che poi è una sopravvivenza di una vecchia cultura aristocratica italiana, no? E gli stranieri ridono quando vedono gli italiani che si presentano come dottore, no? L'un l'altro, ma è uno dei portati della nostra tradizione, e credo che ci sia un blocco molto forte a difesa di tutto ciò. Ora, il punto è che un paese nel quale, come è giusto, secondo me io capisco meglio la posizione della CGIL, di Pantaleo, che dice: attenzione, qui c'è l'università pubblica in discussione. E per loro, e io riconosco la coerenza della posizione di Pantaleo, di tantissimi iscritti al sindacato lavoratore della conoscenza della CGIL, dicono: per noi deve essere pubblica, perché è una garanzia, deve restare pubblica. Io sono di un'altra idea, perché per me un sistema pubblico è un sistema nel quale c'è una autorità che si occupa di fissare gli standard formativi e di certificare la qualità di tutti i soggetti pubblici e privati che, ammessi a quel livello, certificati a quel livello di formazione, concorrono tutti a formare un sistema pubblico su base paritaria e in concorrenza, ed è sulla base di una valutazione di una autorità autonoma, come capita in Gran Bretagna per esempio, che i soggetti nel settore pubblico, per restare nel settore pubblico, per avere i grants, i finanziamenti del settore pubblico, devono di anno in anno alzare con punteggi concreti la qualità dell'offerta informativa. Devono essere liberi di assumere i propri professori, pagandoli con prezzi di mercato, per avere i migliori professori, attirare i migliori studenti, dare migliore qualità formativa. Tutto questo è pubblico per me, ma per Pantaleo e per la CGIL no, e io rispetto che loro si battano perché chi la pensa come me non abbia la possibilità di cambiare legge in Parlamento. Quello che non capisco, e questo è il mio sospetto, è come invece alla posizione della CGIL e di chi la pensa così, nitida, esplicita, coerente, si sommi la posizione, per esempio, per dirne una, di tutti gli ordini professionali italiani, perché poi questo credo che conti anche, perché se trattasse la CGIL da sola, con tutto il rispetto, penso che se sommiamo gli esponenti della sinistra riformista, Ichino, Ricoletta, Lanzillotta, eccetera, che ogni anno dicono almeno una volta siamo per l'abolizione, e tutto il centrodestra che lo dice sempre, almeno in campagna elettorale, poi se lo dimentica per strada, beh, la CGIL secondo me non ce la farebbe a difendere tutto questo. Ma vedo che tutti gli ordini professionali, i medici, gli avvocati, gli architetti, eccetera, si sommano. Allora non è che per caso, ce ne occuperemo nella seconda parte, è questo blocco di ordini professionali a difendere il fatto che l'esame di Stato è una finta, ripeto, finta, ipocrita per quello che mi riguarda, base dei punti di partenza per tutti, quando invece poi le barriere all'ingresso negli ordini, che sono tutto tranne che mercato e concorrenza, sono di fatto elevatissime, e quindi il valore legale serve a coprire un'ipocrisia dei punti di partenza uguali per tutti nell'accesso a quelle professioni che sono ciò che conta del valore legale. Questo è il punto di fondo: diventare medici, ingegneri, architetti, eccetera. Io temo che sia questo il vero problema nella società italiana di oggi. Allora, stiamo parlando dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, del diploma e della laurea. Un tema riproposto da molti decenni nella realtà italiana, in quanto chi lo critica pensa che esso non serva affatto a garantire una eguaglianza dei punti di partenza, che in quanto tale per i liberali e per i socialisti non potrebbe che essere quindi un fondamento da difendere. Ma siccome non è così, dicono i critici, e in concreto serve solo a dare assoluta univocità agli ordinamenti didattici e nazionali, a fingere che l'offerta formativa sia uguale per tutti, quando poi il mercato ci dice che non è affatto valutata così, e serve quindi a difendere la pachidermica intoccabilità di una scuola, di un'università, dicono i critici, e dico io, soprattutto concepita per coloro che vi lavorano e non concepita a seconda dell'offerta formativa che dà alle famiglie e agli studenti. Però, detto questo, i critici devono arrendersi, perché ogni volta che il dibattito riprende il premier di turno dice non si tocca il valore legale. Allora continuiamo in questa nostra segna, ci accompagna ancora Mimmo Pantaleo, segretario generale della FLC, la Federazione Lavoratori dei Conoscenze della CGIL, che ci ha spiegato a lungo come e perché sia giusto che resti, e ha detto a meno che non si faccia una discussione generale su tutto il sistema della formazione dell'università, in fondo alla quale, quindi dice, non è un tabù, ma viene come ultima cosa e non certo come prima, perché a quel punto prima bisogna occuparci di trovare risorse adeguate all'intero sistema formativo, discutere chi e come insegna e perché. Ecco, questa è la posizione di chi dice no. Sentiamo nuovi sostenitori, abbiamo sentito Carlo Lottieri, liberista tra i più sinceri, e a prescindere dal colore politico lo fa per, come noi del Bruno Leoni, perché ci crediamo e non perché siamo parte di uno schieramento politico, ma sentiamo invece esponenti politici di colore segno diverso che invece condividono questa proposta, che però si ferma sempre. E abbiamo con noi Paolo Grimoldi, che è deputato della Lega ed è primo firmatario del disegno di legge per l'abolizione del valore legale della laurea. Buongiorno onorevole Grimoldi. Buongiorno a lei, ascoltatori. E abbiamo il senatore del PD Nicola Rossi, che molte volte ha sostenuto in passato questa posizione. Buongiorno senatore Rossi. Buongiorno a voi. Allora, onorevole Grimoldi, posso chiederle non tanto che cosa pensa della rassicurazione di Berlusconi di ieri, che ripeto è una costante nella realtà italiana, ma la risposta che dà alla domanda come mai tutte le volte che si riapre questa questione, nel giro di pochi giorni il premier in carica, qualunque sia il suo colore politico, di destra o di sinistra, deve dire e rassicurare, no guardate questa roba non si tocca, tenteremo di modificare la scuola, l'università, il centrodestra e il centrosinistra dal punto di vista molto contrapposti, ora è in corso il processo di riforma Gelmini in università, però quello non si tocca. E come mai secondo lei? Beh, perché in questo paese evidentemente quando si parla di merito, di meritocrazia, a parole siamo tutti a favore, ma poi nel concreto è difficile poterlo poi fare. L'abolizione del valore legale dei titoli di studio significa concorrenza tra atenei, quindi non è soltanto lo studente che deve prepararsi di più e meglio a livello soggettivo, ma viene inevitabilmente questa concorrenza che si innesca tra i singoli atenei, così come tra l'altro funziona all'estero, che spiegabilmente non c'è nel nostro paese. Se noi aboliamo questo valore legale del titolo di studio, miglioriamo sicuramente la concorrenzialità tra gli atenei, miglioriamo l'offerta formativa, andiamo creare le possibilità di premiare chi effettivamente è più preparato, ma andiamo anche a penalizzare chi è fintamente, tra virgolette, preparato o ha conseguito una laurea in atenei, tra virgolette, un po' più lassisti, e di conseguenza si trovano poi delle fortissime resistenze. Senatore Rossi, io prima ponevo la questione non tanto di quello che dice la CGIL, e poi tra l'altro Pantaleo risponderà anche a voi, quanto al fatto che mi pare dare più forza al partito dei frenatori, e mi spiega meglio perché i premier poi dicano no, il fatto che tutti gli ordini professionali, cioè non proprio poca roba, perché in Parlamento di solito sono maggioritari quando sommiamo chi rappresenta gli avvocati, i professori universitari eccetera, e quelli difendono il valore legale perché sostengono che senza di quello non c'è il piede paritario all'accesso alle professioni, che io nego che ci sia in Italia perché i muri all'entrata sono fortissimi e non c'è concorrenza, e temo quindi che il valore legale sia una specie di ipocrita totem per questo, più a dire il vero perché difeso dagli ordini professionali e non solo da coloro che lo ritengono una specie di timbro sulle della scuola pubblica. Lei che pensa di fronte a questo mio? È un cattivo sospetto, senatore Rossi? Sono le stesse persone che chiedono le tariffe minime, quindi sono persone di straordinaria coerenza da questo punto di vista. Non dobbiamo molto meravigliarci, onestamente, che poi difendano pure il valore legale del titolo di studio. La loro è un'idea di una società, non fondata sul merito, di una società corporativa dove si entra per motivazioni che spesso e volentieri col merito non hanno niente a che fare nelle professioni, quindi non dobbiamo sperare che da quel punto che da quella prospettiva arrivino segnali di novità, perché è la loro impostazione che purtroppo, diciamo, è di quel tipo lì. Né possiamo sperare che siano loro gli alfieri di un pensiero liberale, né tantomeno può esserlo il Presidente del Consiglio. Io ieri ho trovato la cosa più divertente di tutte, che la dichiarazione nelle agenzie, la dichiarazione di Berlusconi a proposito del valore legale del titolo di studio, veniva immediatamente prima delle dichiarazioni che dicevano che lui si stava occupando di rilanciare l'università del pensiero liberale. Bisogna che si metta d'accordo con se stesso, oppure che venga un po' Einaudi, perché francamente, diciamo, le due cose insieme non stanno insieme, anche secondo me. No, onestamente non so. Detto questo, ora, a parte le battute, il punto vero, secondo me, e questo è un tema che io da sempre, diciamo, pongo all'attenzione soprattutto del sindacato e soprattutto della sinistra: l'abolizione del valore legale del titolo di studio è una misura di straordinaria equità, perché oggi noi consentiamo a persone non preparate di prevalere su persone che spesso e volentieri sono più preparate di loro. Possiamo un secondo, senatore Rossi, poi le restituisco la parola, sentire Mimmo Pantaleo, che è ancora lì, cosa risponde a questa osservazione che lei fa rivolgendola proprio a lui e a tutti i suoi compagni iscritti alla FLC della CGIL. Pantaleo. Ma intanto voglio ribadire che noi siamo decisamente per l'uguaglianza di tutti i cittadini per l'accesso alle professioni, senza barriere, senza rendite corporative che oggi attraversano il mondo oggi, delle professioni. Quindi, da questo punto di vista, noi, rispetto alle posizioni degli ordini professionali, siamo, diciamo, siete distinti, in questo, posizioni beh, radicalmente, ma non c'è dubbio, non c'è opposte, dubbio. Ma invece a Rossi, che dice dal punto di vista di una sinistra eccetera eccetera, dico che, ecco, la risposta è penso che una sinistra vera e all'altezza oggi dei cambiamenti che attraversano la società dovrebbe interessare innanzitutto la qualità didattica e di ricerca che si fa all'interno dell'università e soprattutto che il sistema funzioni, che sia all'altezza delle sfide. Vorrei fare un breve inciso. Ieri il cavaliere Berlusconi ha parlato, diciamo, ha detto tante cose, ma lo ha detto ad una università telematica. Va bene? Sì, sì, che come ha sentito, noi dei liberisti abbiamo detto che sono gli scandali del sistema universitario italiano. Ora, nelle università telematiche, superamento del valore legale del titolo di studio significherebbe che quelle università telematiche sono interessate anche da interventi della magistratura. Sì, sì, sì, è vero. È bene. Avrebbero lo stesso valore di un corso di laurea. Ma no, Pantaleo, no, perché il mercato, già adesso che c'è, perdoni Pantaleo, già oggi che c'è il valore legale esistono, come vede, i diplomifici. Come no? Senza valore legale esisterebbero i diplomifici, come ci sono peraltro nelle scuole medie superiori e nelle università, dove la gente andrebbe a comprarsi un pezzo di carta da appendersi per i parenti, e dall'altra il mercato però saprebbe benissimo distinguere le finte telematiche dove si paga e si sono figli clientelari piuttosto che i grandi politecnici. Questo è il punto ed è già allora, oggi così. A me interessa una discussione sul valore legale del titolo di studio, ma ripeto, io penso che oggi per una sinistra, ma io credo per cittadini comuni, diciamo, per carità, dovrebbe interessare oggi di più di come effettivamente le università funzionano, di come vengano effettivamente valutate, di come effettivamente. Va bene, allora Pantaleo, adesso la devo fermare perché mando le telefonate. Se oggi gente che ha condizioni economiche disastrose. Chiarissimo, chiarissimo. È chiaro che lei dice che bisogna pensare ai soldi università e pensare a chi sia. Io penso che questo è un sistema per difendere tutti ad avere il posto a tempo indeterminato università. Io vedo i ricercatori e quello che sta succedendo, e ho un'opinione radicalmente diversa, però questo significherebbe andare lontano rispetto al valore legale. Sentiamo le telefonate sul valore legale. Iniziamo con Claudio da Pesaro. Come la pensa, Claudio? La penso in maniera abbastanza trasversale, nel senso che sono per difendere il valore legale agli titoli di studio, perché già esiste il fenomeno dell'eterio, delle lauree e dei diplomi acquistati in vario modo. Però esiste col valore legale, come vedete. Quindi sì, sì. Però quantomeno è un freno. Ma non è un freno, è un incentivo. Vabbè, comunque rispetto al suo punto di vista. Riesco a finire il mio pensiero. Certo. È un freno ad una potenziale dirompente situazione che vedrebbe quantomeno penalizzati quelli che non potrebbero in un futuro non molto lontano permettersi di accedere a delle posizioni, diciamo, dei titoli di laurea assolutamente di privilegio. Succederebbe quello che succede in Inghilterra, negli Stati Uniti e negli altri paesi, per cui le lauree contano solo se sono quelle di quei quattro. Sì, dove però Claudio, nell'Ivy League c'è una percentuale decupla di gente brava che va gratis pagata all'università a studiare. Da noi no, in questa scuola che vi piace tanto, uguale per tutti, e dove solo i ricchi e gli imparentati riescono ad avere posto nella società italiana. Vi rendete conto che è così? Lì, ripeto, ad Harvard, rispetto alla statale di Milano, non sto dicendo l'ultimo, la percentuale di studenti bravi che non tira fuori un dollaro per avere Harvard, cioè la vita spianata, è di 10 volte superiore. Perdonate, ma questi sono i numeri. Riccardo da Livorno, prego Riccardo. Sì, buongiorno. Lei mi ha rubato l'intervento, ma è esattamente così, c'è pochi punti. Togliere il valore legale al titolo di studio significherebbe A. incentivare la concorrenza, e in questo paese mi sembra una cosa impossibile. B. ammazzare tante di quelle università il cui valore oggettivamente spesso e volentieri il mercato già non riconosce. In ultimo, è semplicemente un modo per difendere l'accesso a concorsi pubblici, soprattutto, principalmente, per dare accesso a concorsi pubblici, perché il mercato privato questa differenza lo fa e da tanto. L'unico motivo per cui andrebbe mantenuto è poter dare a parità di titolo di studio un laureato a un politecnico a Pisa o che ne so io, rispetto a un laureato a pari titolo di un'università X, l'ultima del paese, la stessa opportunità di accedere a magari un posto pubblico. Siccome secondo me stupidamente ritengo che l'amministrazione pubblica dovrebbe puntare all'eccellenza e non piglio tutto, semplicemente questo, siamo di nuovo al solita cosa all'italiana. Grazie Riccardo, sentiamo Stefano da Sassari. Stefano, c'è Stefano da Sassari? Non c'è più Stefano da Sassari, va bene, allora in questo caso sentiamo il minuto di informazione sulla circolazione stradale e poi torniamo con i nostri. Oppure è tornato Stefano da Sassari? Non è tornato, sento, vedo dei segni che non riesco a capire bene, anche perché il vetro, dovete capire voi che state dall'altra parte, vedo riflessa la mia faccia, questo è il punto. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte della trasmissione di oggi, dedicata al controverso dibattito sul valore legale del titolo di studio, il diploma e del diploma di laurea, che per quanto trasversale sia la convergenza di opinioni sul fatto che andrebbe superato, da decenni in realtà tutte le volte che si apre la questione immediatamente c'è un premier che dice non si può, e siano il centrodestra o siano il centrosinistra al governo. Allora io a questo punto sentirei un'ultima telefonata e poi farei fare le considerazioni finali a onorevole Grimoldi e a Nicola Rossi. Sentiamo Alessandro da Bologna. Alessandro, come la pensa? Buongiorno. Buongiorno a tutti. La mia era una domanda più che altro, e mi chiedevo se venisse applicata, diciamo, questa eliminazione, l'abolizione, sì, no, del valore legale. Allora ci sarebbe un tempo in cui necessariamente gli istituti che sono diciamo meno riconosciuti a livello di merito, a livello di valore degli altri, dovrebbero ricoprire questo gap, dovrebbero, diciamo, colmare questo gap. E io immagino che questo si possa fare ed eliminare il pregiudizio su questi, pregiudizio che a volte è reale, cioè non è soltanto un pregiudizio ma è la realtà, è soltanto attraverso la formazione degli studenti che poi entrano nel mercato del lavoro e dimostrano di aver raggiunto, sì, una formazione adeguata. Questo credo che si sviluppi in un arco temporale molto ampio. E quindi mi chiedo, in tutto questo periodo diciamo di tempo che occorre per colmare questo gap, tutti quelli che escono fuori dagli istituti, che non sono riconosciuti quanto altri, nel mercato del lavoro come si muovono? Come riescono a essere tutelati? Mi facevo questa domanda. Perdoni Alessandro, già oggi quello che lei lamenta avviene oggi, perché tu puoi dire a un'impresa privata la mia laurea vale esattamente come la mia laurea presa dovunque in Italia vale esattamente come quella dell'ateneo, della facoltà più eccellente in Italia, e l'impresa privata dice no, secondo me magari quello ha un po' di punti in meno, ma io preferisco se ciò di là e per me vale di più. Quindi questa obiezione io la capisco, ma significa non vedere come funziona il mondo reale già oggi. La differenza è che abolendo il feticcio dell'eguaglianza del valore legale, si costruisce un sistema in cui i punti bassi dell'offerta qualitativa vengono invece misurati, parametrati pubblicamente, quindi incentivati, in qualche misura obbligati a sanare il gap invece che a mettere in cattedra i sommari imparentati, a farsi misurare sulla percentuale di coloro che nel più breve volgere di tempo riescono a ottenere impieghi meglio pagati. Come funziona, per esempio, è un criterio delle università britanniche, tutte pubbliche in Gran Bretagna, attenzione, non stiamo parlando degli Stati Uniti, tutte pubbliche, ma in cui i grants, i finanziamenti si graduano secondo questo criterio. Come si vede, poi a cosa serve il valore legale invece? Serve a dire tutti fintamente uguali, tutti fintamente liberi di andare in deficit e poi di protestare pure se poi c'è un meccanismo di commissariamento come ci doveva essere in questa riforma, e poi il Parlamento ha invece puntato i piedi perché poi per professori universitari non le vogliono queste cose, diciamoci la verità, quelli che dicono si taglia, però in realtà poi farsi i conti in casa e rendersi responsabili se si sballa nei deficit, questo no, perché è un taglio alla cultura. Allora, onorevole Grimoldi, posso chiederle una cosa? Per una forza politica come la sua, che giustamente nella storia italiana entra e resta perché poi è capace di dire radicalmente le cose come la pensa, senza fare troppi giri politologici, questa è una battaglia in cui impegnarsi sul serio oppure è una questione da lasciare di fondo? Perché in realtà, dite, i meccanismi che contano per mettere in moto la geografia di gap e di distanze geografiche e di reddito economico, capacità di produrre in Italia, è in realtà data da altre determinanti. Questa non è per voi una battaglia fondamentale, lo capirei, ma mi faccia capire se per una forza anche radicale come la vostra vale la pena di impuntarsi su questo oppure no. Guardi, assolutamente sì, io mi occupo all'interno della Lega del Movimento Giovanile. Il problema del valore legale del titolo di studio si è posto in ambito universitario dai nostri ragazzi per il fatto che inevitabilmente vi sono atenei nei quali è richiesta laurearsi in sostanza o studi e ci sono atenei un po' più lassisti. Non è possibile che ai fini del conseguimento di un posto di lavoro nell'ambito privato, poi le leggi le fa il mercato, nell'ambito pubblico conti il pezzo di carta che ha lo stesso valore su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto tra atenei che insomma non ti danno la stessa offerta formativa rispetto ad altri. L'unica, io ascoltando le telefonate mi viene anche da sorridere perché rispetto ad alcuni interventi avverrebbe l'esatto contrario. Basta vedere il caso dell'Inghilterra e quant'altro. L'unico problema di carattere pratico avverrebbe per il concorso pubblico, ma se noi il concorso pubblico, invece che basarlo sul voto del pezzo di carta, lo basiamo sul test effettivo, la preparazione del merito per l'assunzione, che problema c'è? Che problema vi sia che per fare il concorso uno viene e fa un bel test sulla sua preparazione effettiva, sul merito, invece che sul voto che ha sul pezzo di carta che ha preso chissà dove. Se mi permette, vorrei sottolineare che oltre che il valore del titolo di studio, il nostro sistema formativo nell'università è viziato per altri due aspetti, e con questo vorrei rispondere soprattutto all'esponente della CGIL. Vi sono studenti che magari sono di famiglia non abbiente, che pagano le tasse universitarie il doppio o il triplo delle tasse universitarie di altri atenei, basta andare sul sito del MIUR dove vi è la tassazione regionalizzata per accorgersi che in Lombardia si pagano 1700 euro di tasse universitarie, in Campania se ne pagano 450, con la differenza che però chi ha pagato tanto di tasse universitarie ha un pezzo di carta per il quale ha veramente studiato, qualcun altro diciamo che il più delle volte, o la cronaca locale ci dice, che a volte non è successo proprio così. L'ultimo punto che le sottolineo, che oltre che le tasse universitarie, vi è un'altra discriminazione che è data dall'esame di Stato, perché il nostro paese ha un altro vizio più unico che raro, quello che alla fine della laurea tu per laurearti devi fare l'esame di Stato. Allora mi spieghi lei per quale motivo vi sono città come Torino, Bologna, Milano, dove su 100 candidati all'esame di Stato ne promuovono 10 e vi sono città dove su 100 candidati all'esame di Stato ne promuovono 90. Mi spieghi lei? No, è questo, le cronache e anche le indagini spesso ci hanno spiegato che le ragioni non hanno proprio a che vedere con l'eguaglianza dei punti di parità e l'eguaglianza dei criteri di esame negli esami di Stato. Rapidissimamente, c'è una Simona dalla provincia di Alessandria? Sì. Dica. Sì. Buongiorno, semplicemente volevo dire, dunque io non sono laureata, un semplice frustrato diploma di ragioneria, non volevo fare quello. Vabbè. Guardi che ai miei allievi alla fine del 3 più 2 di economia dico attualmente che un buon ragioniere che abbia ben studiato oggi è più preparato di un laureato in economia della 3 più 2, mi dispiace, ma le devo dire questo. La mammina voleva vedermi lavorare in banca. Vabbè, ma detto questo, guardi, se non lavora in banca meglio. Detto questo, ho avuto la fortuna tanti anni fa di essere presa in un'impresa, insomma, di restauro. Sì. Lì sono cresciuta senza diploma, senza niente inerente a quel lavoro. Io sono cresciuta in questa ditta, ho lavorato, ho imparato a bottega. E lavora senza problemi? Assolutamente senza problemi. Io ho la mia partita IVA da parecchi anni, prendo delle persone a fare lo stage da me che studiano. Ecco, io devo interrompere Simona, però Simona ci spiega che una formazione non solo licealizzata e universitarizzata, ma una formazione in cui l'applicazione della cultura del fare, della cultura professionale tecnica, come è il modello austriaco e tedesco, è la parte di formazione in tutta l'Europa continentale che oggi ha meno problemi nel creare adeguatezza e nel creare sbocco immediato al mercato del lavoro. Questi sono fatti. Grazie a Simona per avercelo ricordato. Senatore Nicola Rossi, concludendo, non avverrà mai? No, ho dei seri dubbi onestamente che possa arrivare, perché come abbiamo sentito anche dalle telefonate, le resistenze sono fortissime. Sì. Ciò che è terribile è che arriverà, diciamo, in maniera non esplicita. Già oggi il settore privato, in realtà, del valore legale del titolo di studio, non voglio usare, diciamo, no, però se ne impipa, ecco, diciamo così. Ma esattamente, del tutto. Allora qual è il problema? Il problema è che il valore legale del titolo di studio oggi in realtà fonde due problemi: quello di una scarsa, diciamo, concorrenza in ambito universitario, e quello invece di una scarsissima efficienza del settore pubblico, perché è lì soprattutto che il valore legale del titolo di studio incide, e incide al peggio, se così posso dire. Forse questo anche giustifica, diciamo, le particolari resistenze che a volte sentiamo a sinistra, perché, diciamo, è chiaro che il settore pubblico è il settore nel quale che rappresenta uno degli insediamenti della sinistra in questo paese, ma quello che io proprio non capisco è come si possa desiderare, e io la desidero, una università con risorse adeguate, un'elevata qualità della didattica, e poi non avere lo strumento, diciamo, della competizione fra atenei, che è l'unica cosa che può trasformare quella elevata qualità della didattica in percorsi di vita selezionati e ottimali anche per chi non è abbiente. Fare un'elevata qualità della didattica e regalarla poi, come ha detto lei, agli imparentati o solo ai più abbienti, io lo trovo una delle cose più classiste che si può immaginare. E io sono d'accordo con questa conclusione del senatore Rossi, e anche d'accordo sulla, diciamo, improbabilità, a prescindere dall'auspicabilità, che ciò possa avvenire. Anche se con la testa dura io continuerò, noi continueremo. Capisco che la politica abbia poi sempre interessi da rassicurare. Io stimolo le parti radicali come quelle del senatore Rossi, che è un radicale riformista, come quelle dell'onorevole Grimoldi, che è un leghista, a darci dentro, perché la mia idea è questa: uno Stato equalizzatore, come quello che promette ai vostri figli eguaglianza dei punti di opportunità, e invece con quello tutela solo i rappresentanti sindacalizzati e chi vuole più posti con i denari pubblici, uno Stato finto equalizzatore è uno Stato corruttore, per quello che mi riguarda. Appuntamento a domani. Mm.